Ricordi quella canzone degli Skiantos, quella Scaccolarmi? No, cioè, mi ricordo Mi piacciono le sbarbine. Ma Scaccolarmi non te la ricordi? No. Scaccolarmi, Scaccolarmi. Secondo me sono canzoni che vanno bene, no? Perché chiedo asilo. Sì. Dai, allora facciamola. Facciamola, allora. Come che fa? Non lo sai? No. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Benvenuti a Chiedo Asilo, un saluto da K, un saluto da Drago, eccoci a metà settimana. Tutti belli scaccolati. Anche un saluto da Wunderwaffer, che è lo sponsor di questa trasmissione, sì. La merendina svizzera che sta conquistando il pubblico in Italia. Sì, un po' più ormai di entusiasmo, perché così vabbè, non so più cosa dire. Dai, passiamo subito alle cose serie. Allora, così. La webcam più ovvia del mondo è stata finalmente installata. Ma guarda che quelli della Wunderwaffer si arrabbiano se dici che passiamo così altre cose. Ma la trasmissione è anche qualcosa. Webcam. Sì, cioè? Dov'è secondo te il posto più ovvio per mettere una webcam in modo che in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, uno possa vedere cosa sta succedendo in quell'angolo lì? Dai, dimmi, qual è il posto niente, più, cioè il luogo più ovvio? La luna. Ma non no, la luna sulla Terra, no? Una cosa ma se devi vedere qualunque posto nel mondo, no? Devi vedere uno preciso. No, cioè, non ho capito niente, Drago. Un luogo in cui è stata installata una webcam. Un luogo preciso della Terra. Su quelli della Wunderwaffe, io lo sapevo. A furia di far così, poi dopo ci chiamano. Va bene. Allo? Ma sono loro? Eh sì, che sono loro. Vabbè, allora di che adesso parliamo subito dello sponsor. Solo una piccola natürlich, wir werden das immediat Wunderwaffe sprechen und. Sì, dai. Allo? Allo? Metti giù. Allo? Ma com'è? Ma pago io qua, non ho capito. Sì, perché fanno così gli svizzeri. Ti chiamano, ma paghi gli svizzeri, tu. Non è vero? Ah sì. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Torniamo alla webcam più ovvia del mondo. Sì. Dai, K, cerca di capire la domanda. Va bene, ho capito, sì. Il posto più ovvio dove mettere una webcam, dove tutti vorrebbero... Posto più ovvio dove mettere una webcam. No, vabbè, cerca di non più essere... Più ovvio dove mettere il naso. Esatto. Più ovvio dove mettere il dito. No, dai, allora... La piaga. No, la piaga. Allora, dai, una cosa... Allora, vediamo, la Tour Eiffel. Più moderno. Più moderno, il ponte sullo stretto. Quale? Quello lì è futuribile, sì, addirittura. Quello no, la webcam lì metterebbero. Ci sono allora, un pilastro, so, una roba rock. Un posto rock, sì. Tipo la tomba di Jim Morrison a Parigi per l'ascesa. No, quasi, no. Più pop, non più so. Pop. Non so. Dai, capa, le strisce pedonali di Abbey Road. Ma certo! Come ho fatto a non indovinare? Ci sono stato anch'io un sacco di volte. Anche noi due ci siamo stati. Adesso le mitiche zebre sono monitorabili 24 ore al giorno su www.abbeyroad.com/crossing e indovina un po', c'è sempre qualche gruppo di quattro amici che attraversa facendo il verso ai Beatles. Tra l'altro, tra poco le aboliscono le strisce pedonali perché sono pericolose, quindi ne muoiono di più sulle strisce pedonali che in autostrada. Adesso che le tolgono, scusa, al posto delle strisce pedonali in Abbey Road cosa mettono? Un semaforo. Ma come un semaforo? I semafori sono molto più sicuri, l'ho letto. Sì, ma c'è già il semaforo Abbey Road. Non so se ci fosse al tempo dei Beatles. Adesso c'è sicuramente, giusto. Me lo ricordo. Allora lasceranno il semaforo e cancelleranno le strisce. Ma che senso ha, scusa? Le strisce inducono il pedone ad attraversare con troppa noncuranza. Poi finiscono schierate. Sì, ma ho capito le strisce pedonali qualunque. Quello sono d'accordo. Ma un conto sono le strisce pedonali di Abbey Road. Cioè ho lì capito. C'è camminato Paul McCartney a piedi nudi. Consoliamoci col fatto che resisterà il semaforo di Abbey Road. Cioè, quindi cosa fai? Quindi gli Oasis fanno una foto attaccati al semaforo, cioè. No vabbè, a meno che appunto gli Oasis, Paul e Ringo potrebbero fare un disco di reunion con in copertina il semaforo di Abbey Road. Capito? Quale attraversano... Paul e quale Ringo? Il semaforo di Abbey Road non diventerà mai leggenda, dai. Tenente Drago, comandante K, presto, dobbiamo andare a sradicare il semaforo di Abbey Road. Questa è la più grossa scemenza che abbia mai sentito, comandante. Tenente Drago, osa contraddirmi? Vado subito a Londra a sradicare il semaforo di Abbey Road, così dovranno continuare a esistere le leggendarie strisce pedonali dei Beatles. Io veramente no. Ha paura? Vuol tornare a casa, tenente? Io veramente no. Vuol tornare a casa, tenente? Ha paura e vuol tornare a casa, tenente? Vada subito a Londra, questo è un ordine, tenente! Allora... E ora, bambini, ricreazione! Qui non arriva nessuno. Io comincio a essere un po' nervoso. Ho dato appuntamento a tutti e due, no? A Gildo e Joris, perché loro non si conoscono, no? E così si incontrano per caso e... Vediamo, io spero che vada d'accordo, Ciao Gildo! Ciao Gildo! Sì, dai, cominciamo bene, ti saluti da solo. Vabbè, ascolta, stavo pensando, no? È mesi e mesi che lo penso. Noi siamo sempre in due, no? In due, io e te. Quindi possiamo fare solo giochi da due, no? Da due, non da due più, capito? Quindi tipo giocare a pallone, no? E noi possiamo giocare solo a rinvii, no? Rinvii, bello! Ho capito che a me piace a rinvii, però alla lunga, magari leggermente può stancare, no? Se fossimo in tre, puta caso che fossimo in tre! Potremmo fare che uno sta in porta e due si scartano, no? Capito? È più divertente, no? Rinvii! Ho capito! Rinvii! Alberto! Che ignori! Ciao, Alberto, che fai? Niente, ero qui con mio amico Gildo, no? Ah, tra l'altro, voi non vi siete mai conosciuti, no? No, Alberto, io non l'ho mai visto, io ho visto solo a te. Chi è Gildo? Gildo, no? Cioè, Gildo è Gildo. È un mio amico, no? Ma forse te ne avevo parlato una volta! Parlate! Ma questo è normale, Alberto. Perché? Cioè, è sempre così. Oggi sto poco bene. No, sta bene. Allora, può dare l'impressione che sia un po' così. Però, questo, lascia stare le prime impressioni, no? Da chi vi presento? Allora, Ioris, questo è Gildo. Ciao, Gildo, tanto piacere, io sono Ioris. Ioris! Terrone! Terrone? Uè, ma che stai dicendo, Cominciamo bene, ma che ti ha insegnato queste cose? Madonna, lo sapevo che succedeva. No, niente! Allora ha detto terrore, no? Terrore, perché lui quando conosce qualcuno nuovo si spaventa perché è timido. No, no! Terrore! No, io ho sentito bene! Ha detto terrone! Allora, succede a tutti! Terrore, loro pensano terrone! Gido, adesso basta però, Allora, ragazzi, adesso vi siete conosciuti, no? Poi dopo queste prime incomprensioni si sciolgono col tempo. Giochiamo, no? Alberto, qua non ci siamo. Ma giochiamo! No, non dobbiamo parlare io. Sì, giochiamo! Ma di cosa? Adesso giochiamo, poi parliamo, no? No, prima parliamo. Noi due siamo una società, abbiamo messo il capitale e adesso arrivi Gildo, bello! E si mette a giocare senza mettere nei soldi. E mi dici pure del ruolo. Uè, allora, a parte che il capitale, se c'è qualcuno che l'ha messo, sono io. E comunque Gildo non è un problema, no? Dovesse esserci questa necessità di 50 euro, non c'è problema, ci penso io, no, con Gildo. No, Gildo, aspetta. Senti, Gildo, scusa un momento, avresti mica 50 euro? Li hai adesso? 50 euro! No, adesso no. E domani? Domani! A domani sì. Allora, Ioris, vede che tutto sia piano. Gildo i soldi li porta domani, no? Domani? Domani è troppo tardi! Ma come troppo tardi? Li dobbiamo avere oggi! Se no, che parliamo a fare, Ma che roba che sei! Come sei veniale! Terrone! Che hai detto? Ancora terrone? No, niente! Lascia stare! Allora, lasciami pensare. Ma sì, oggi pomeriggio possiamo andare a casa di Gildo, no? A fare merenda. Merenda, lo dice lui, no? Ci invita. E poi lì ci facciamo dare i soldi, no? Gli euro. Tanto lui li dà sua madre, no? La signora Milfia. E chi è? È la mamma di Gildo, no? Ah. Intanto conosce anche lei, no? Guarda, è una donna speciale, Signora Milfia! Sì, è tua madre. Allora, Gildo, quindi tu devi farti dare i 50 euro, no? 50 euro! Dice che sono per beneficenza, no? Sì. Che l'asilo ce l'ha raccolta per beneficenza, sì. Così poi puoi entrare in società con noi, no? Cioè, vero, Ioris? E come no, certo. Dice anche Ioris, poi società, Società! Società. Però, allora Ioris, Dillo, quando sei lì, mi raccomando, devi comportarti come si deve. Cioè, la signora Milfia, cioè, come dire, è una vera signora, Adesso non voglio approfondire. Con lei ci parlo io, no? Tu la saluti con gli occhi bassi, Poi tu vai con Gildo in cameretta, no? Sì. Io mi occupo della signora Milfia. Mi occupo del senso, cioè, per il conquibus, no? Sì, no, vabbè. Sì, no, come? No, noi siamo soci. Dobbiamo dividere tutto. Appunto, ci dividiamo, no? Io sto con la signora Milfia e tu vai in cameretta, no? Così siamo divisi, perfetto, 50-50. No, noi siamo una società. Dobbiamo stare insieme. No, cosa insieme? No, la signora Milfia? La signora Milfia non si divide, Cioè, sono io il cocco della signora Milfia, non è che è lì, uno passa, vengo anch'io. Mamma! Ma sì, è tua mamma, lo so, di mamma ce n'è una sola, ognuno c'ha la sua, no? È che noi abbiamo un rapporto speciale, no? Ma quale rapporto? Il rapporto speciale che vuoi dire? Gli tocchi il tetto. Uè, allora, ma stiamo scherzando? Non l'ho mai toccata neanche con un dito. Ma t'appoggi? E ora, bambini, e tutti a casa. Hai visto Marchion che si fa crescere la barba per non perdere tempo la mattina? Sì, tra l'altro Michele Serra gli ha consigliato perfidamente di saltare anche la doccia. No, la doccia se è furbo la fa di sera prima di andare a letto. Sì, ma poi di notte si suda. No, fa ma caldo, a Detroit fa freddo, c'è la media di meno 5 questa stagione, scusa. Sì, ma lui dorme in una super suite con coperte di piume d'oca, tutto il riscaldamento high tech. Al massimo. Al massimo. Quindi suda. Figurati come dorme bene Marchion, con tutti i disoccupati che ha sulla coscienza. Vabbè, lui non dorme, altro che tutte le automobili invendute che riempiono le concessionarie americane. Vabbè, anche guarda, italiane. Secondo me lui dorme benissimo, a posto con se stesso. Prima di andare a letto telefona sempre a John Elkann. Che bello, pensa un po'. Lo chiama per mettergli un po' di paura addosso, un po' d'ansia, no? Ma come? Così, tanto per tenerlo sul pezzo. Lo minaccia di indire una riunione sabato pomeriggio, così che John deve rinunciare all'uscita al tour. Ma no, cos'è, perché lo chiama venerdì? Eh sì, gli dice, guarda, domani pomeriggio ci vediamo. Poi però glielo dice, scherzavo John, vai pure a sciare. Fa ridere, Marchione uno fa ridere. Poi la sera, prima di andare a dormire, finisce la telefonata con John Elkann, fa la doccia, si lava i denti, sì, si toglie il maglioncino blu e i pantaloni, rimane canottiere e mutande, mette sul vinile di Foxtrot, di Genesis, e si addormenta al 12° minuto di Supper's Ready, mentre c'è Peter Gabriel che canta I'm a baby, I'm always waiting for you, I'm a baby, don't you know our love is true, don't you know.